E da oggi chi sbaglia? Risfera. Io risfero. Tu risferi. Lui risfera. Ma no, lei risfera. Risfera scrive bene, è cancellabile e... Oggi fai il bis. Prendi due risfera nei colori che vuoi più. Uno stirarello portafortuna a solo 1600 lire. Cosa vuoi di più? Noi con la risfera, voi con la risfera, pellicano. Oh, prova, prova, ci siamo, chiamate i soccorsi, SOS. Leva il costumino rosso, ti ho visto. L'estate è finita, e... però è sempre tempo di salvataggi linguistici. Il pronto soccorso della lingua. Esatto, capito. Non siamo, però ci teniamo a dirlo che siamo più come Mitch Duchennon che come Pamela Anderson. Io sono più come la balenottera in fondo, quella a largo che viene fotografata. Non c'erano, mi dispiace, ma non c'erano. Dobbiamo fare la versione... Che bello, lo sai che non l'ho mai visto io Baywatch? Forse mi è bastata la sigla. Ecco, però c'è una versione bellissima di Roger, di American Dad... sì, andatevelo a cercare, Roger American Dead, Baywatch, è bellissimo, no, è bellissimo, la parte meglio, ho visto solo quello di Baywatch. E ne penso sia fiera. Abbastanza fedele alla realtà, è abbastanza fedele, Roger è il mio personaggio preferito. Ma insomma, che bello spottino, abbiamo fatto proprio una bella... apertura per il nostro ritorno in pista dopo un paio di settimane tra il ponte e... Eravamo in alternanza scuola-lavoro. Esatto. Alla nostra... Non vi sveliamo... Veranda età. Veranda. La nostra veranda età. Non vi sveliamo qual è il lavoro dell'alternanza, insomma. Però ci siamo anche un po' riposate. No, infatti, più insomma. Che altro... Le puntate della Brusca necessitano di tempo per essere riviste e riscritte. Chiaramente. Io ci ho messo una settimana per questa, era un po'... Infatti è venuta fuori una miscellanea. Una gran bella puntata. Guarda sì, un po'. Sì, sì, sì. Guarda sì. Un po'. 16 novembre in diretta su Radio Wombat, sono le 20:06 secondo i nostri computer. E la nostra puntata si chiama L'animale scrivente. Wombat che scrive. Un wombattino che scrive con le cacchette. Che schifo. Una puntata varia sulla scrittura. Perché? Perché fino ad oggi vi abbiamo sempre parlato di come dire, linguaggio verbale, più o meno, no? Per cui il motivo per il quale l'essere umano ha sviluppato la caratteristica innata del linguaggio, quindi vi abbiamo parlato di grammatica generativa e di tutto quello che poi ne consegue, fino alla regolamentazione, no? Delle norme sintattiche, morfologiche e via dicendo. Abbiamo fatto dei fantastici excursus sull'impoverimento del linguaggio e soprattutto il linguaggio leghista. Evviva! Evviva! Ne avremo ancora tantissime da fare. Tra l'altro ascoltavo ieri sera, guardavo dei video di Guzzanti, no? Aniene, per la precisione. Oh, che bello! Successo quando? 4 anni fa? Sì. Ecco. C'è da rimpiangere, sì, va bene, c'è da rimpiangere. Vero. Anche Scilipoti vuole fare all'amore. Mamma, davvero. E quindi, dopo la solita invettiva, tra l'altro Savonarola forse stasera sarà con noi, iniziamo un po' a parlare di questa piccola parentesi nelle nostre trasmissioni relativa alla scrittura. Chissà quando e perché è nata la scrittura, ve lo impariamo noi. Ve la impariamo. Tradizionalmente la registrazione della forma verbale, quindi la scrittura dei linguaggi, è stata collocata dagli storici più o meno 3200 anni fa, anzi 5200 anni fa, nella bassa Mesopotamia, quindi ovviamente la solita regione così fertile, della mezzaluna fertile, dove vivevate? Tra il Tigri e l'Eufrate. Li vuoi quei kiwi? E, dove vivevate? Dove vivevate? Tra l'altro vi consigliamo di vederlo. Chi è andato... Lo posso dire? Sì. Chi ha visto il film sulla vicenda di Stefano Cucchi forse ha riconosciuto nella figura del padre l'attore comico Max Tortora. Bene. Per togliervi l'amaro in bocca di questo film, che effettivamente è molto forte, vi consigliamo di cercare su YouTube dove vivevate. Dove ecco. Vivevate. E capirete, insomma, che... Ecco. Sì, bisogna davvero smorzare un po' quello che vi lascia il film. È vero. Ma noi torniamo in Mesopotamia. Bella questo binge. Why not? E, la scrittura nasce, purtroppo... Non per poesia, ma per ragioni di contabilità e commercio. Io ti ho dato una capra, tu mi hai dato 3 cavoli. Scriviamolo. Firmo. Perché così è nato anche il vile denaro. Il valore di un oggetto scambiato con altri oggetti. E, diciamo che già nel Paleolitico esistevano sistemi per dare consistenza, no, alle conoscenze e farle arrivare alle generazioni successive. Era ovviamente la famosa scrittura per immagini, quindi i famosi graffiti che troviamo, rupestri, insomma, che si trovano come reperti archeologici in diverse insomma, località, soprattutto tra la Francia e sui Pirenei. Però la scrittura, la prima vera e propria scrittura, è quella cuneiforme, che ha un fortissimo collegamento con le prime registrazioni su sigilli, le cosiddette cretule. Belline le cretule, sono belline. Più che altro valgono un sacco di soldi. Ecco. Oggi se ne trovi una puoi andare direttamente a batterla all'asta, anche se non sarebbe il caso. E ti compri una bella villetta. Tiè. In riva al mare. Tiè. E poi tanto paghi il condono e te la lasciano. E te la fanno. Poi spera che non che la natura non si ricordi del condono. Stiamo rimanendo senza la nenia. Sto per morire. No. Aiuto, chiamate il soccorso marino. Beh, possiamo... E, tutto a posto? Sì, quasi. Così, uscito, la voce è così. Credo di aver avuto per la prima volta in vita mia un attacco d'asma. Probabilmente abbiamo la radio polverosa, perché sì. Abbiamo acceso il riscaldamento, il wombat warming. Wombat caverna. Effettivamente, forse era un po' impolverato, quindi. E insomma, queste bellissime cretule diventano dei veri e propri sistemi di registrazione che rappresentano, come dice Wikipedia, il coronamento del processo di specializzazione lavorativa e di incremento dell'agricoltura, dalla rivoluzione urbana al coagularsi di un coordinamento statale per la messa in opera delle canalizzazioni. Quindi, come vedete, ci riferiamo sempre al mondo mesopotamico. Serviva tutto questo fondamentalmente per una ragione di immagazzinamento dati e per una successione e una sorta di ricordo, funzione di ricordo di queste azioni. Quindi purtroppo ci dispiace, ma non siamo riusciti a trovare una spiegazione legata al mondo prettamente linguistico e più una condizione, diciamo, storica e antropologica. Però nell'arco dei secoli, per fortuna, la scrittura e la necessità di comunicare correttamente ha fatto sì che le informazioni, diciamo, più appunto burocratiche, blande, che venivano trasmesse con la scrittura si trasformassero e quindi la scrittura è diventata un'arte e addirittura un mestiere nel Medioevo, che tuttora rimane, almeno fino a qualche anno fa, rimaneva un vero e proprio culto, il culto della scrittura. Hai un attacco d'asma anche tu. Scusate, evidentemente c'è qualcosa in regia. Forse che nuocia la salute. Non penso più la polvere, banalmente. Banalmente come la scrittura. E quindi da qui nasce il nostro cruccio, no, cara Nenia? Come si fa? Lo scrivere bene. La necessità di comunicare correttamente e di perpetrare l'arte della scrittura, no? Quante volte scriviamo in un giorno, contando anche i messaggini? No. Tante, tantissime. Quindi diciamo che l'essere umano tutt'oggi non è che proprio, insomma, sia alieno alla scrittura. Per cui potremmo essenzialmente decidere di optare per utilizzare delle norme. E queste norme... E chi ce le suggerisce? Ce le suggerisce il compianto Umberto Eco. Queste norme che vi presentiamo ora, che vengono diciamo raggruppate in una serie di appunti scritti da Luisa Carrada, che è una grande conoscitrice della scrittura in lingua italiana, si chiamano Come scrivere bene. E sono tratti dalla bustina di Minerva. Dillo. La bustina di Minerva, ragazzi. Quindi una rubrica portata avanti sull'Espresso dall'85 fino al 2015 circa. Tu lo sai che appena dici Minerva io la devo partire. La bustina di Minerva, ragazzi, è in parallelismo con il cinema, corre a... Il vero cinema. Il vero, quello autentico che piace a noi. Quello lì buttato a la caso. La bustina di Minerva, pensateci bene. Bella tabaccaiona, sì. Ma cosa vuole? 5 scatoloni di Minerva. Non mi chiede cosa servono? Ma cosa vuoi mai che interessa a me? È un periodo che fumo da morire, proprio ci do dentro col fumo. Sigarette, pacco, tabacco e venere riducono l'uomo in cenere, come dice il proverbio. Cesarina! Quei bei minervoni, sì, perché si fuma sempre, tutto il giorno. E uno ha bisogno dei fiammiferi quando si fuma molto. Eccoci, questo fumo di Minerva. Ecco, Umberto Eco intendeva proprio questo. D'altronde è spesso ritratto col sigaro Umberto Eco, non nelle foto, per sì. Cui era lui in realtà. Abbiamo non era... preso spunto dall'immagine più famosa di Umberto Eco. Abbiamo preso colto Oddio, in castagna. Che schifo. Tratto da Acapulco, prima spiaggia a destra, a sinistra, non mi ricordo, a sinistra. Credo. Capolavoro di Gigi Andrea del 1981. Sì. È proprio un capolavoro. Non è aiutami qui. A dire capolavoro. Capolavoro. E non è finita qui. Non è finita qui. Ne vedremo delle bellissime. Ne sentirete di meravigliose. Queste regole di Umberto Eco sono circa una quarantina, ve le possiamo più o meno leggere tutte quante, tanto ci vuole pochissimo. Sì, anche perché sono molto belle. Sono così. Sì. Che si fa? Una testa? Dai. Inizio... Inizi lei, vadi lei. Vadino. Evita le allitterazioni, anche se allettano gli allocchi. Mm. Non è che il congiuntivo va evitato, anzi, che lo si usa quando è necessario. Che bello. Evita le frasi fatte e minestra riscaldata. Esprimiti siccome ti nutri. Non usare sigle commerciali, abbreviazioni, eccetera. Sono anche molto belle viste sì. Scritte queste proprio. Ricorda sempre che la parentesi, anche quando pare indispensabile, interrompe il filo del discorso. Stai attento a non fare punto punto punto indigestione di puntini di sospensione punto. Usa meno virgolette possibili. Non è tra virgolette fine. Non generalizzare mai. Le parole straniere non sono affatto bon ton. Sì, avaro di citazioni, diceva giustamente Emerson. Odio le citazioni, dimmi solo quello che sai tu. I paragoni sono come frasi fatte. Non essere ridondante, non ripetere due volte la stessa cosa. Ripetere è superfluo. Per ridondanza si intende la spiegazione inutile di qualcosa che il lettore ha già capito. Punto. Solo gli stronzi usano parole volgari, il mio preferito. Sì, sempre più o meno specifico. L'iperbole è la più straordinaria delle tecniche espressive. Non fare frasi di una sola parola, eliminale. Questa è bellissima, perché più bella. Non fare frasi di una sola parola, punto, eliminale. E nell'eliminale c'è proprio una frase intera. Guardati dalle metafore troppo ardite, sono piume sulle scaglie di un serpente. Metti le virgole al posto giusto. Distingui tra la funzione del punto e virgola e quella dei due punti. Due punti. Anche se non è facile. Se non trovi l'espressione italiana adatta, non ricorrere mai all'espressione dialettale. Peso è il tacon del buso. Chissà se l'ho letta bene. Abbiate pietà. Peso è il tacon del buso. Penso sia veneto. È probabile. Ma non sono sicura. Non usare metafore incongruenti anche se ti paiono cantare. Sono come un cigno che deraglia. C'è davvero bisogno di domande retoriche? Sii conciso. Cerca di condensare i tuoi pensieri nel minor numero di parole possibili, evitando frasi lunghe o spezzate da incisi che inevitabilmente confondono il lettore poco attento, affinché il tuo discorso non contribuisca a quell'inquinamento dell'informazione che è certamente, specie quando inutilmente farcito di precisazioni inutili o almeno non indispensabili, una delle tragedie del nostro tempo dominato dal potere dei media. Gli accenti non debbono essere né scorretti né inutili, perché chi lo fa sbaglia. Chiaramente erano tutti sbagliati. Tutto grave. Non si apostrofa un apostrofo articolo indeterminativo prima del sostantivo maschile. Non essere enfatico. Sì, parco, con gli esclamativi. Neppure i peggiori fans dei barbarismi pluralizzano i termini stranieri. No, giusto. Vedi, guarda. Scrivi in modo esatto i nomi stranieri come Baudelaire, Roosevelt, Nietzsche e simili. Tutti scritti Baudelaire, Roosevelt, Nietzsche, senza la T. Nomina direttamente autori e personaggi di cui parli senza perifrasi. Così faceva il maggior scrittore lombardo del XIX secolo, l'autore del 5 maggio. All'inizio del discorso usa la captatio benevolente per ringraziarti il lettore, ma forse siete così stupidi da non capire neppure quello che vi sto dicendo. È sempre stato molto simpatico, ecco. Cura puntigliosamente l'ortografia. Inutile dirti quanto sono stucchevoli le preterizioni. Non usare mai il plurale maiestatis. Siamo convinti che faccio una pessima impressione. Non confondere la causa con l'effetto. Saresti in errore e dunque avresti sbagliato. Oh. Non costruire frasi in cui la conclusione non segua logicamente dalle premesse. Se tutti facessero così, allora le premesse conseguirebbero dalle conclusioni. Tutti a me questo. Non indulgere ad arcaismi, afax legomena o altri lessemi inusitati, nonché deep structures rizomatiche che, per quanto ti appaiano come altrettante epifanie della differenza grammatologica e inviti alla deriva costruttiva, ma peggio ancora sarebbe se risultassero eccepibili allo scrutinio di chi legga con una cribia ecdotica, eccedano comunque le competenze cognitive del destinatario. Non devi essere prolisso, ma neppure devi dire meno di quello che... Ah, finite! Finite. Sono bellissime. Molto divertenti. Capito, il nostro caro amico che andava a comprare 5 pacchi di fiammiferi Minerva, sicuramente ha seguito qualcuno di questi consigli del nostro caro Eco. Eh sì. Allora vai, possiamo... Sì, possiamo mettere... Ti faccio sentire qualcosa per tirarti un pochino su il molare. Il mistero sul molare. No, senta, scusi, eh? Ma non mi va, dai. Vai, io gli ho detto che devono arrivare presto. Attenti, bambini, attenti. Aspetta un altro gruppo per domani. Sì. Aggiungerò dei letti, cosa vuole che le dica? Toccherà far così. Permesso. Sì. Grazie. Ma mi raccomando, mica tanti. Buongiorno. Che non si ripeta. Buongiorno. Prego. Senta, un mio caro amico di Bologna mi ha detto di venire... Tutto esaurito fino a settembre. Sì, ma questo mio caro amico mi ha detto... Vai dalla zia, dalla zia... Non c'ho nipoti, neanche spori. Anzi, ne ho uno. Ma mi fa così tanto schifo solo a pensarlo che non lo tratto. Sì, ma questo suo presunto nipote mi fa tanto schifo che non lo tratto. Mi ha detto vai lì, adesso non so più se ha detto Hotel Excelsior o Pensione Celso. Comunque uguale come lì. Pronto? Oh, che fa? Comandi. Ah, niente, Torquato, vadi pure. Torquato, sembra, mi ricorda, ha gli stessi baffi a pettine, quelli di suo, sembra suo nipote, un bel trichecone proprio. Sa che anche lei ha proprio lo stesso sguardo folto di suo nipote. Ma che cos'ha? Non è acqua? Accidenti! L'ha incollato il registro delle presenze! Ah, è colla questo, non era lei, acqua! Pellegrino, non ci torni più! Lei è mio nipote! Ma non capito? Si arrabbi, Torquato! Torquato! Pensione cesso? Pensione cesso si dovrebbe chiamare, eh? Oh, pardon! Ma insomma! Scusa! Oh! Ma cosa fai? Ah, che belle queste, come dire... I ricordi degli anni Ottanta, esatto. Insomma, un argomento se si inizia va anche concluso, no? È chiaro, per cui è approfondito e poi concluso. Esatto. Guarda, io intanto che tu pensi a cosa dirci o a cambiare eventualmente argomento, visto che poi si parte con un altro paragrafetto, vorrei dire velocemente due cose riguardo agli eventi dei prossimi giorni. Allora, eventi del giovedì 15 novembre, ovvero oggi, dalle 21 alle 23, laboratorio Machine Funk al Next Emerson in via di Bellagio 15, zona Firenze Sesto, zona Castello. Poi abbiamo venerdì 16 novembre, 21:30, mezzanotte e 30, live diversi gruppi, sempre al CSA Next Emerson Firenze, tra cui Nicotina. Si chiama Hate the Glory Night, l'evento. Poi abbiamo, sempre a Next Emerson, in contemporanea, in un'altra sala, mi fanno notare, una breaking, un DJ set cerchio di ballo dalle 21. Carino. Domenica 18 novembre, dalle 16 alle 20:30, allo Spazio del Tango, la matinée di Tango Sognato, al Next Emerson, anche questo. E poi, va bene, qui ci sono i contatti, ma insomma, se andate nel sito del Next Emerson troverete il tutto. E invece sabato pomeriggio alle 15:30, concentramento in Piazza Ogni Santi a Firenze, abbiamo il Firenze non ha paura, corteo contro il razzismo e repressione, lotta e solidarietà. In solidarietà a tutti gli antifascisti condannati e sotto processo in sostegno di Mimmo Lucano e Don Biancalani. Abbiamo, 17 novembre, basta, non, il resto poi insomma i comunicati li trovate anche su internet, fermiamo il decreto Salvini, insomma mi sembra interessante. Che mi sembra doveroso partecipare. Sabato pomeriggio tanto non c'è mai niente da fare. Esatto, e poi finita quella, insomma uno è in centro, va a farsi un girettino, va a bere una birra, tutto contento e soprattutto nel pomeriggio ha fatto qualcosa di importante. Insomma, in chiave di non razzismo, non sessismo, non fascismo, Firenze non ha paura, tutti e tutte in piazza. Ebbene. Bene, poi, bene, chissà, ci vedremo lì forse. Probabile. In ricordo invece il palinsesto della nostra radio preferita, ci ritroverete in replica sabato e domenica, sabato alle ore 10 del mattino, mentre la domenica alle 15 del pomeriggio, subito dopo di noi oggi in diretta alle 9:15, 8 Hertz, in grosso modo. E niente, ascoltate Radio Wombat anche in AM a 1359, queste le frequenze. E, signore, se signori, no ci troviamo qui in streaming dal sito. Sempre in streaming e poi chiaramente tutti i podcast. I podcast. Sempre presenti. Sempre presenti con noi, presenti sì, sempre come le interferenze. Oh. Ah. Queste mi piacciono tantissimo. Allora, ho trovato sempre su un libro di Luisa Carrada, la soprannominata esperta di scrittura di lingua italiana, e lingua italiana anzi, questo piccolo racconto che è tratto, non è suo, ma è stato scritto da una sua collega. Si usa appunto la scrittura per informare, ma cosa succede quando le parole costituiscono e costruiscono un'interferenza? Ebbene, l'articolo si chiama Varchi cattivi, una storia sul traffico, sull'interferenza, sulla capacità delle parole di dire il contrario di quanto affermano. È tratto dai quaderni del mestiere di scrivere, quindi lo trovate tranquillamente online, sono tutte risorse gratuite scaricabili in PDF. Allora, a Roma, all'ingresso delle zone a traffico limitato ZTL, ci sono dei tabelloni luminosi che indicano, faccio una premessa, è stato scritto questo brano una quindicina d'anni fa. Le ZTL non erano ancora così diffuse. Ci sono dei tabelloni luminosi che indicano quando si può passare senza prendere una multa e quando non si può. La prima volta che ne ho visto uno c'era scritto varco attivo e avevo capito che potevo passare, ma mi sbagliavo di grosso. Due elementi collaboravano strettamente per trarmi in inganno. Da una parte, la mia esperienza pregressa mi portava a considerare un varco attivo alla stregua di una ZTL aperta. Un primitivo processo di inferenza mi suggeriva un legame semantico nella coppia attivo-aperta. Dall'altra, il mio codice linguistico, la lingua italiana, mi suggeriva che attivo è un aggettivo collegato con il polo positivo delle cose e che un varco ha a che fare con il passaggio, il transito, l'accesso e il passo. Quindi, varco attivo uguale passaggio attivo, transito attivo, accesso attivo. Non avevo dubbi, potevo passare. E invece no. Varco attivo sta a indicare che al varco sono attivi i controlli, videocamere e fotocellule e chi passa prende la multa, eppure salata. Allora, quando ho letto questo mi sono venuti tutti i casi delle mie inferenze nella mente. Il più eclatante è quello dei referendum. Votare sì e no al referendum. Vuoi abrogare quella legge che si scatena quel cespuglio nel cervello che rotolano come nei film western. Fatto apposta per ingannarti generalmente, perché come la doppia negazione, no vabbè. Non è vero che non l'ho detto, No, no. No, io non è vero che non l'ho detto. Lo fa. E quindi perché abbiamo messo questo piccolo trafiletto? Perché ci si ricollega un pochettino anche a quanto detto prima da Umberto Eco. Cerchiamo di essere sempre chiari con la scrittura, perché i messaggi possono essere fuorvianti. Scrivere bene non significa scrivere solamente in maniera concisa utilizzando delle giuste regole grammaticali sintattiche. Significa anche cercare di esprimere un concetto nella maniera più veritiera possibile e con meno giri di parole possibile. Ci sta. E quindi abbiamo selezionato per voi, ma poi ve li anticipo e intanto ci godiamo un altro intermezzo cinematografico. Abbiamo selezionato due strumenti, l'indice Gulpease e il vocabolario di base, vocabolario corrente di Tullio De Mauro, di cui vi parliamo tra un pochino. Esatto, venerando il venerabile, mitico Tullio. Allora io dalle interferenze passo subito alle ambiguità, che ti devo dire? Ci dica voi. Allora, se ho ben capito, lei vuole un prestito per comprare una casa. Esatto. Di 100 milioni. Esatto. Vede, però io purtroppo non la conosco personalmente, quindi... Io, dottore, nemmeno io la conosco personalmente, però mi fido. Stia, si rilassi. Sì, sì, capisco. No, vede, il problema, lei sa come funzionano le banche? Ha qualche idea? Certo. Così, beh, molto semplice, molto semplice. È tutto un problema di garanzie. Cioè, poi, prestito... Ma mi faccia terminare, perché non vorrei passare per questi profittatori che c'è oggi. Io questi 100 milioni non sono il tipo che lei mi dà 100 milioni per la casa, io li prendo e non mi rivedo. No! Direttore! Non sono quel tipo lì! E non gli permetto nemmeno di pensare! Vi firmo un foglio dove attestatamente metto. Io pagherò il traente della fattura via via di questa banca, che credito all'ordine della carta di credito, dell'interesse del 5% e via. Io prendo questi 100 milioni che vi ridò, sottolineato, vi ridò 100 milioni a voi, quando mi capita, mica subito, un giorno passo di qui, dico, oh, tenga questi 5 milioni, si va a 95, si va, a un certo punto poi si va a fare, si fida. Se ben capito, lei vuole un prestito per comprarsi la casa. Esatto. Di 100 milioni. Esatto. Per esempio, lei potrebbe avere questi denari investiti, no? Come? Questi 100 milioni lei potrebbe averli investiti da qualche parte. 100 milioni investiti? Sì. Ma io non so quanto possa... ma credo, forse mettendo insieme anche... la roba da piccino, calzoni corti, cappottacci, scarpe, 100 milioni direttore, non ci arrivo a 100 milioni. Ma perché c'è gente che ha 100 milioni investiti? Per carità, miliardi. Beh, io scusi, se lei avesse 2 miliardi, andrebbero subito investiti, no? Certamente, si fa un bel guardaroba, compriamoci questa satteria. La svalutazione oggi, si immagina lei. Ma che c'è gente? Dove andrebbero a finire i miliardi se non fossero investiti? Lasci 100 miliardi ignudi, eh? Dubito. E quindi lei questi 100 milioni investiti non ce l'ha. Ma forse lei non ha questi 100 milioni investiti, però c'ha dei titoli. Parli per bene. Sì, voglio dire dei bot. Direttore, moderi. Ah, gioca in borsa. Qualche volta da piccolino, ma ora ho perso un po'. Sì, ma la borsa... Sì, ma poi è pericolosissima, la gente si fa male. Per carità. Male? Oggi giù, domani su. Io me lo... Simpatico. Lei veramente è un po' zuzzurellone. Capita, un giovanotto simpatico, mi piace, lei... Per me, così. C'è un'aria... Senta un po', io... Lei si deve rendere conto anche di quanto costa un prestito oggi in banca. Lei lo sa quanto costa? Almeno il 25% all'anno di interessi. Ciò significa che fra un anno lei ha 125 milioni, fra 2 anni ne avrà almeno 150, fra 4 anni lei ha 200 milioni. Ma io no, tra 4 anni magari non ho bisogno di 200 milioni. Direttore, non si deve allargare così. Io ho bisogno solo di 100 milioni. Mi dia questi 100 milioni, ora facciamo la vita, poi ci vestiamo, andiamo, giochiamo insieme, ma lasci perdere questa cosa, giusto? Anche volendola favorire e volendole prestare questi 100 milioni, lei deve rendersi conto che con questi 100 milioni, se lei non li restituisce nei termini stabiliti, lei va incontro alla mora, sa? E che mora? Meglio, Come meglio? Guardi, è pesantissima questa mora. Di gusti siamo uguali, anche a me mi piace roba soda, come dire. Bravo. Lasciamo stare le donne, direttore, non voglio andare a trovare cose che non sono di noi. Io ripeto che sono una persona che se viene da lei a chiedere soldi glieli chiede per una cosa di primario necessità, la casa. E si perde le mora, una cosa. A un certo punto lei magari si scorda con questi 100 milioni. Io passo di qui, dico, dottor Dio d'aiuti, chi è? Sono io. Se ricorda quei 100 milioni? Dice no, come no, me li dette. Tenga questi due, si va a 98, 97, non è pari. Poi si prende un caffè, giusto? Forse c'è un equivoco, giovanotto. Lei è venuto qui, non ha soldi investiti, non ha titoli, non ha bot, non ha niente e vuole 100 milioni. E pretende che noi glieli diamo? Detone! Ma lei, non mi vuole dare 100 milioni? Ma lei va, ma contrario al suo nome, dottor Diotaiuti? Lei si contraddice! Allora io, non ho niente! Certo che non ho niente, vengo a chiedere 100 milioni, perché se avessi un miliardo me li darebbe 100 milioni. Certo. Certo. Ah sì, eh? Certo. Ma se avessi un miliardo, glieli darei io a lei 100 milioni. 200. Tenga, 300 milioni. Qui, tenga, non li voglio neanche, me ne resta 700. Grazie tante. Non li voglio, li mette in tasca. Non li voglio, li mette in tasca. Se c'ho un miliardo mi dà 100 milioni. Allora, se io ho bisogno di una melanzana, devo andare dal dottorato, devo avere un miliardo di melanzane a casa? Eh? Non me l'ha mai detto l'ortolano, ce l'ha lei un miliardo di melanzane? Mai! Né di pesche, vede, di quello che c'ho bisogno. Da quando ti aiuti? Lei non mi presta 100, lei va contro il suo nome. Lei si contraddice. Direttore! Ma dove siamo arrivati? Insomma, tu mi turbi, giusto? Mi turbi tantissimo. Tu mi turbi, questa era un'altra delle nostre citazioni cinematografiche. Questo per dirvi che, appunto, mettendo un punto al tema dell'ambiguità che scaturisce spesso da uno scritto troppo sintetico o non troppo curato, vi diamo appunto qualche risorsa abbastanza sconosciuta ai più, ma è veramente utilissima per la scrittura, per la leggibilità e per comprendere quando un qualche cosa è leggibile e quando non lo è. O meglio, come fanno i linguisti e le persone che svolgono una professione legata, per esempio, alla scrittura di manuali e vocabolari, utilizzano un indice matematico. Attenzione, attenzione, non si è mai parlato di matematica in questa trasmissione, lo facciamo oggi. Non abbiamo mai parlato di matematica, perché me lo impedisci. Sì, perché a me viene l'ansia, mi vengono gli attacchi di panico. Allora, l'indice Gulpease è un indice, mi piace tanto dire Gulpease, sì. Gulp è onomatopeico, è un indice di leggibilità di un testo tarato ovviamente sulla lingua italiana. Rispetto ad altri, utilizza la lunghezza delle parole in lettere vere e proprie anziché in sillabe, semplificandone così il calcolo, perché ovviamente è un calcolo che viene fatto da un algoritmo in automatico. E, è stato definito, e qui si spiega il perché il GULP, nel 1988 nell'ambito delle ricerche appunto del gruppo universitario linguistico pedagogico, appunto in acronimo GULP, presso il seminario di scienze dell'educazione dell'Università degli Studi di Roma alla Sapienza. E si basa su rilevazioni raccolte tra l'86 e l'87, quindi nell'arco di un anno, tra le cattedre di filosofia del linguaggio e pedagogia, sempre dell'Istituto di Filosofia. Questo indice considera due importanti variabili linguistiche. La prima è la lunghezza della parola, come dicevamo, e la seconda è la lunghezza della frase rispetto al numero delle lettere. È complicato. La formula per il calcolo, ve la sveliamo, è 89 più 300 per numero delle frasi meno 10 per numero delle lettere fratto il numero delle parole. Insomma, nel numeratore mettiamo frasi e lettere, nel denominatore il numero delle parole. I risultati matematicamente sono compresi tra 0 e 100. L'89 non so per quale motivo, comunque vabbè. E dove il valore 100 indica la leggibilità più alta e 0 ovviamente la leggibilità più bassa. E ovviamente il valore discriminante è questo. In generale risulta che i testi con un indice inferiore a 80 sono difficili da leggere per chi ha la licenza elementare. 60 difficili da leggere per chi ha la licenza media, 40 difficili da leggere per chi ha un diploma superiore. E in maniera complementare all'indice Gulpease è la valutazione del vocabolario comune utilizzato nel testo, quindi la notorietà, se così vogliamo dire, dei termini che vengono utilizzati all'interno di una frase scritta. Tutto chiaro, no? Torna, sì, torna. Cioè, magari po possono tornare gli indici inferiori al numero X e diciamo, la valutazione anche del vocabolario all'interno del testo. A me quel calcolo lì non mi risulta, e tra l'altro mi sa che ho scambiato nominatore con denominatore. Io non lo so, Fratto stavo per morire, mi sono allontanata dai X. Tutte microfoni scuse, perché ho avuto un momento di cedimento polmonare e quindi mi sono dovuta prolasso fratto allontanare. X. Ho visto anche le stelline per un Non erano le attimo. stelline, erano i Gli per gli asterischi. asterischi, i per della frazione. Sì, ho rischiato di morire soffocata, ma Fammi tap tap vabbè. sulla spalla che la prossima volta ti soccorro magari. Tant'è. Vabbè. Insomma, tutto questo per arrivare al tema del vocabolario. Diciamo, una frase, un linguaggio scritto, coerente, tiene conto di tante cose, appunto, no? Quindi abbiamo detto prima, le regole di Eco, cercare di semplificare, ma non semplifichiamo troppo, altrimenti il discorso diventa ambiguo. E al tempo stesso cerchiamo, tramite la semplificazione, di rendere la frase, lo scritto, leggibile. Perché? Perché ci sono degli indici che sono in grado di misurare questa cosa. E infine il vocabolario, quindi proprio la parte che dà non soltanto struttura, ma senso a quello che andiamo a scrivere. E, è il vocabolario della lingua italiana di base, stilato dal Venerando. Qua ci vorrebbe una musichetta che fa tipo Tullio De Mauro. Però che dici se prima di se mettiamo un qualcosina prima di parlare di questo che tra Sì. l'altro è il nostro ultimo argomento della serata. Ti faccio ascoltare una canzone seria Oh questa bene. volta, però, Bene. Muri e muri, respiro con le mie liriche e la mia penna è prassitere, erige il corpo d'Artemide ai limiti di due virgole. Sento i rumori di un tam tam distante, si accosto piano l'orecchio al mio foglio, quello che è il peso di Atlante all'istante. Se scrivo si alza e si perde nel vuoto, e quando verranno a prendermi al limite delle tenebre e troveranno un corpo e ogni mia riga, se li potranno prendere, sarò solo un corpo vuoto in questa stanza imbottita. E lei cantava scrivendo shalala, mi verranno a prendere, non sarò pronta per tempo, la la la, di paura non ho. Mi sento caute grato, ogni mio sguardo sta più opaco. Mi sento cado sempre per tua mano, stessa ora, stessa lana. Cadrò sempre per tua mano, stessa ora, stessa data. E tu non sei come me, tu non dubiti. L'incanto delle spire, il fragore dei tuoi crepuscoli. Questi ultimi 12 minuti assieme vi parliamo del vocabolario di base corrente di Tullio De Mauro. Riprendiamo il discorso. Pensavo di avere il microfono spento. No, ti chiedevo solo dove volevi leggere, in quale schermo preferivi leggere. Sì, il mio. Grazie, prego, signora prego, regista. Cara, non si figuri, basta chiedere. Grazie. Il vocabolario della lingua italiana, che da ora sintetizzeremo come VDB, di Tullio De Mauro, è un elenco di lemmi che è stato elaborato con criteri statistici, quindi matematica, aritmetica, grandi protagoniste della puntata di stasera. E il vocabolario di base rappresenta la porzione della lingua italiana usata e compresa dalla maggior parte di coloro che parlano italiano. È una cosa estremamente interessante per un'indagine linguistica che, come avete capito, è sempre a braccetto con la sociologia e l'antropologia. Tiki tiki tiki tiki. La scelta dei lemmi è stata fatta in base ai primi 5.000 lemmi del lessico italiano di frequenza. Okay? Anche questo è diciamo un papier a parte che è denominato LIF. È stato scritto da Bortolini e altri autori nel 1972. Questi 5.000 lemmi sono poi stati ridotti a 4.750 tramite un processo, insomma, di verifica dell'effettiva comprensibilità. E questi 5.000 lemmi, per usare diciamo una cifra tonda, su cui si basa Tullio De Mauro, sono stati integrati con insiemi di lemmi determinati poi per altre vie e meccanismi. Quali sono questi lemmi, come sono stati classificati? Sono stati, diciamo, suddivisi su tre diversi livelli. Vocabolario fondamentale, di alto uso, di alta disponibilità. Andiamo a vederli. Il vocabolario fondamentale, 1991 le Emmy più frequenti in assoluto nella nostra lingua. Di alto uso sono i successivi 2750 le Emmy dell'insieme preso dal lessico italiano di frequenza. E sono le Emmy ancora molto frequenti, anche se meno presenti nel linguaggio rispetto al vocabolario fondamentale. E il vocabolario di alta disponibilità sono ben 2337 le Emmy determinati in modo vario e soprattutto con dizionari dell'italiano più comune. Un'integrazione questa del vocabolario di alta disponibilità che è stata necessaria perché i Emmy del lessico italiano di frequenza sono risultati dello spoglio, diciamo, di alcuni testi scritti. Però oggigiorno è dimostrato che in tutte le lingue esiste un insieme di lemmi che, pur essendo quasi del tutto assenti nella lingua scritta, sono noti. E sono i lemmi come forbice e abbronzare addirittura, per cui nel senso li usiamo, li possiamo scrivere, ma è piuttosto difficile trovarne delle occorrenze all'interno dei testi scritti. Dopo questa parentesi aritmetico-matematica, possiamo dirvi che il vocabolario della lingua di base, assieme al vocabolario corrente che non abbiamo snocciolato in dati perché è una tipologia di raccolta di lemmi sempre in divenire, quindi diventava un po' complicato spiegarne la formazione. E farne delle statistiche, esatto, che a te piacciono tanto. Belline. Diciamo che questo VDB è stato la prima opera questo tipo di genere realizzata in Italia fino ad oggi ed è uno strumento di importanza fondamentale per controllare e migliorare la leggibilità di ogni testo. Testo ovviamente scritto secondo criteri scientifici, non possiamo applicare il VDB a un tema di un bambino di quarta elementare ovviamente. E le parole che non sono all'interno del vocabolario di base sono meno comprensibili per le persone con una scolarizzazione, diciamo, inferiore alla media e per le persone poco abituate a leggere. Per cui, se si vuole essere sicuri che il testo sia comprensibile a tutti, bisognerebbe utilizzare solamente questo insieme di circa 5.000 lemmi del lessico italiano. E che dire ancora? Che occorre aver chiaro che un testo che ha un'alta leggibilità non è, diciamo, chiuso all'influenza, all'entrata di parole nuove. Perché quando si usa un lemma che non è di base, soprattutto un lemma importante però per comprendere a fondo il testo, bisogna spiegarne il significato. E questa cosa come avviene? Utilizzando lemmi presenti nel vocabolario della lingua base. Se no è inutile spiegarlo. E infatti, mi sembra che i libri di testo delle scuole fino alle superiori siano costruiti in questa maniera. Sni. Secondo dovrebbero... me è un grande sni, sì. Dovrebbero cercano, in realtà... Secondo me spesso cercano di alzare il tiro, ma non so. Gna fanno. Ci provano, insomma. E un esempio di scrittura ad alta leggibilità è presente nel mensile, in realtà non è aggiornato da 4 anni, era un mensile, due parole, lo trovate su dueparole.it, anche questa è una risorsa ovviamente consultabile, gratuita, non, come vi dicevo, particolarmente aggiornata, ma insomma vabbè. I redattori di Due Parole scrivono articoli utilizzando solamente questo tipo di vocabolario creato da Tullio De Mauro e spiegando le parole che non vi appartengono, quindi è un'ottima dimostrazione dell'uso, insomma, pratico del VDB. E la redazione applica anche altri criteri di leggibilità attinenti alla grafica, caratteri grandi, illustrazioni che non spezzano il testo e al modo di disporre i contenuti, riquadri di spiegazione, testa nuova riga per ogni frase e via dicendo. Quindi effettivamente una leggibilità assicurata in questa maniera. Senza quegli orpelli che poi in realtà spesso sono anche inutili, complicano semplicemente la lettura. E per questo che dicevi... Non dare niente di più. Che dicevi che i libri di testo fondamentalmente... Sì, qualche volta sono un po' più complessi, ma sì, perché sono più di difficile fruizione spesso, o comunque usano una terminologia che purtroppo adesso per i ragazzi giovanissimi non è più adatta, ahimè. Sarebbe buono reintrodurla, però come si fa? No, sono passaggi graduali, non è che puoi fare dal librino dell'elementare, cioè nel senso anche i libri delle elementari sono abbastanza complessi. Sì, no, si entra in un discorso, può Nel diventare un ginepraio. il grande ginepraio, sì, Delle riforme scolastiche, dei metodi di e anche insegnamento. dell'approccio degli editori a questi nuovi gruppi di giovani che comunque Potrebbe essere uno sono. spunto per una nuova Sì, ci sono dei puntata. testi, sono molto complessi, più che, cioè, nel senso, sono correttamente scritti e gli argomenti sono trattati in modo efficace. Il problema è che poi di tutto quel testo il ragazzo probabilmente ne usufruisce di una percentuale minima, non so, tipo un 20% probabilmente. Passo, passo. E sì, è un po' basso effettivamente. Però vabbè, non sarei nemmeno in grado di poterne parlare seriamente con dei dati alla mano concreti, perché sono solo io idee, opinioni che mi faccio via via, quello che vedo un po' così sul campo. Però sì, di un testo che sia di Cavalcanti, cioè, che ne so, il capitolo su Cavalcanti, voglio dire, magari lungo 6 pagine, i ragazzi probabilmente ne hanno appreso una, se va bene. Mezza Sì, su sì, Cavalcanti, sul sì. Guido, mezza. Ora, esempio banale, però nel senso, cioè, non c'è mai una lettura completa del tutto e del tutto poi non rimane veramente, anche solo la competenza linguistica, ma anche proprio le parole strumento, no? Boh, vabbè. Ve ne parleremo in un'altra puntata Sì, sarebbe perché si davvero aprono. interessante approfondirlo questo argomento, perché in realtà sì, ci sarebbero delle cose da scoprire. Però ora attualmente non sono in grado, sono solo impressioni, davvero non ho gli strumenti per portare avanti un discorso del genere, però sì, potrebbero essere impressioni da mettere su carta e iniziare a farci un discorso, probabilmente. Vediamo un po' questo lungo inverno del Wombat che Lungi si da sta me in per questo aprire. momento farlo, non sarei davvero in grado. E quindi 20:58 rimane lo spazio per l'ultimo brano La della puntata è serata. finita, però abbiamo fatto tutto eccetto dire ai nostri social Wombat, sito Wombat. wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, facebook.com/radio-wombat-firenze, mail postawombat@insiberia.net. Scriveteci, amateci, ascoltateci, dedichiamo questo pezzo, glielo dedichiamo, che Non lo dici? so perché era appena arrivato un messaggio in regia che dice che l'unico Lemmy che conosco è quello dei Motored. Quindi sì, questo glielo Allora, possiamo dedicare. sì, è giunto il momento. Tanti baci, Allora, giovedì prossimo abbracci. riascoltateci in replica, scaricate il nostro podcast e ascoltate Radio E Wombat. appuntamento alle 20 di giovedì 22. Alla Ciao. settimana prossima, ciao. Yes, ciao ciao. Certuni la mazurka e l'apro sono molto simili. Walzer e bebop, Billy Idol, Narchi in collo, Hip Hop e le Supremes. Tipo che su reportage allo zoo scrivono di furie rintintisti rincoglioniti. Dice beati gli ultimi, poiché saranno i primi. In ogni caso gli sfigati resteranno tali. Mi ami, mi stimi, ti piace lo stile del rap, ma levati dai coglioni. Un assemblamento di super telegattoni con la verità in tasca, giornata ai canti gregoriani. In cerca di contenuti, stereotipi a memoria, stipati in vasca, ognuno nel proprio stronzo, scroto a bagno. Mentre il pigio si rinfresca, situazioni di contegno, il mediocre mangia crusca e caga legno, pura alchimia. fatto di cronaca cucito su misura, poca fantasia, molto impegno, meticolosa la cura in compagnia di parola d'effetto, disegno come su un tiro piazzato, ci metterei il tuo brutto culo al posto del pallone, calciato di potenza dritto contro il palo, e scrivi che scrivi, e scrivi che scrivi, descrivi che scrivi, ma che minchia scrivi, e scrivi, descrivi che scrivi. Si strunzata fosse una cambiale, si schini ribata, rendete conto di cazzate che spara per regnare il giornale, si sapesse che fosse diabetica, te portasse a casa e te mettesse zucchero posto rossale, giornalista ballista, del pacca miette cechista, tanto saccia seconda sulla strunzata capala, ha già vista una fanzina, diventa una rivista, grazie per ciò sciocce che abusava nel ranara, che pubblicità, tre pagine di interviste in regalo, manca mezza verità, sull'articolo ridicolo e banale, forse sono drastico ma per sta gente in merda cascavano i terroristi talebani, t'hanno portato rindanata dimensione, tra televisione, radio e giornale, anni te camacista se teneva Babbo Natale, che hanno drogato se iniettata una pista di marijuana, s'hanno mandato storie più strane, hanno manipolato i capri cristiani, hanno tenuto a mano generazione sana come i fascisti, i comunisti o Vaticano.